Le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Sulle banche Padoan difende la Boschi, Salvini contro Renzi è un'infamia, il pensionato suicida sulla coscienza, indagati i vertici di Etruria. E Nicastro al vertice delle nuove banche parla Radio 24, dice numeri circoscritti, 1000 i clienti più esposti per 30 milioni di euro. E sempre a Radio 24 il presidente dell'associazione bancaria Patuelli chiede avvisi sui prodotti a rischio come per le sigarette. Legge di stabilità, fondi per le identificazioni dei migranti, arrivano le assunzioni per medici e infermieri, ma lo sciopero di domani del personale sanitario è confermato. Si apre l'udienza in Cassazione nel processo per la morte di Stefano Cucchi, si decide sull'assoluzione dei medici mentre prosegue l'inchiesta bis. L'Arabia Saudita lancia una coalizione musulmana per sconfiggere il terrorismo mentre iniziano i colloqui di pace sullo Yemen a Ginevra. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, il 349-238-6666, tanto per gli sms quanto per i messaggi su WhatsApp. In apertura dunque torniamo a parlare degli effetti politici e giudiziari delle vicende bancarie dopo il decreto con il quale il 23 novembre scorso l'esecutivo ha dato il via libera al salvataggio di Banca Popolare dell'Etruria, Carichieti, Cariferrara e Banca Marche. La tensione dal punto di vista politico continua ad essere appuntata sul ministro delle riforme Maria Elena Boschi, il cui padre è stato vicepresidente di Banca Etruria e il fratello ha avuto un ruolo manageriale, mentre proseguono le inchieste. L'indagine della Procura di Arezzo punta il dito direttamente contro i vertici. Omessa comunicazione di conflitto di interessi è reato contestato a Lorenzo Rosi, ex presidente della Popolare dell'Etruria, e al manager Luciano Nataloni, ex membro del CDA. In sostanza, i due sono accusati di aver sfruttato a fini personali il loro ruolo per godere di finanziamenti che altrimenti non avrebbero ottenuto. I fatti risalgono al 2013-2014, proprio quando era vicepresidente il papà del ministro Boschi, e le contestazioni della Procura partono dalla relazione di Banca Italia che a febbraio decise di commissariare Etruria. Nel mirino 185 milioni di finanziamenti che hanno provocato 18 milioni di perdite, e proprio per ripianare i buchi che Palazzo Koch stima in 3 miliardi di euro sarebbero state emesse le obbligazioni subordinate diventate carta straccia con il decreto salvabanche. In più, sebbene la famiglia Renzi abbia smentito, non si fermano le polemiche sul possibile legame tra Rosi e i genitori del premier. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Governo e maggioranza fanno quadrato attorno a Maria Elena Boschi, sempre più sotto attacco per la vicenda del decreto salvabanche. Per le opposizioni la titolare delle riforme è in conflitto di interessi a causa dell'incarico di vicepresidente ricoperto dal padre in Banca Etruria. A difenderla stamattina è il ministro dell'economia Padoan, il quale si dice certo che alla fine Boschi ne uscirà alla grande perché non ha nulla da nascondere. Il titolare di Via 20 Settembre ribadisce anche la sua piena fiducia a Banca Italia e Consob, sostenendo che l'attività di vigilanza non è messa in discussione. Le opposizioni dal canto loro restano invece sulle barricate. Il Movimento 5 Stelle chiede che sia calendarizzata quanto prima la sua mozione di sfiducia nei confronti del ministro Boschi. Ospite della Zanzara, il leader della Lega Salvini torna invece all'attacco di Renzi per la vicenda del pensionato che si era tolto la vita dopo aver perso i suoi risparmi. L'infame di Renzi parla di sciacalli che si approfittano dei morti. Ma vanno a dire alla vedova del pensionato che si è suicidato perché ha perso tutto per colpa di un decreto demenziale. Cioè, è colpa di Renzi, vabbè, no, per carità. Ho scritto che è un suicidio di Stato, l'ho scritto fin da subito. No, ma era colpa di Renzi, ha detto. Vabbè. Sì, ce l'ha sulla coscienza Renzi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E questo è il quadro dal lato giudiziario e politico. Livia Zancanera ha anche intervistato Roberto Nicastro, che è presidente delle quattro nuove banche nate dal decreto. Sentiamo un passaggio dell'intervista. Le nostre evidenze parlano oggi di circa un migliaio di clienti più esposti, per un totale di 30 milioni di euro complessivo. Cosa intendiamo per clienti più esposti? Intendiamo piccoli risparmiatori o che abbiano meno di 100.000 euro di patrimonio presso le nostre banche, potrebbero averne anche da altre parti, ma questo, diciamo, sono i dati non disponibili, quindi presunti piccoli, e che abbiano oltre metà del patrimonio in questi titoli subordinati. Ecco, questi complessivamente sono un migliaio e sono quelli che chiaramente si evidenziano come i clienti più esposti. In totale fanno 30 milioni di euro. E tra poco alle 13.35 vi faremo sentire uno stralcio più ampio di questa intervista realizzata dalla nostra Livia Zancaner. Intanto sentiamo l'opinione di Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, che è intervenuto oggi a Mix24, dunque ospite di Giovanni Minoli, sul tema della vendita di prodotti rischiosi allo sportello. La lotta al fumo è stata fatta fin dalla seconda metà degli anni Ottanta in varia maniera, innanzitutto scrivendo a caratteri cubitali obbligatori sui pacchetti di sigarette nuoce gravemente alla salute. Cioè voi prevedete un sistema analogo, insomma. Chiedo che le competenti autorità, che penso siano europee, o per legge di Stato impongano a tutte gli emittenti e i venditori di titoli che venissero definiti dalle medesime autorità ad elevato rischio di apporre nella prima pagina di questi moduli. Cioè, si pare come le sigarette. Con gli stessi caratteri cubitali delle sigarette, concreto, prodotto finanziario ad alto rischio. E questa è la proposta che l'ABI ha elaborato. Assolutamente. Diciamo così. E di conseguenza una cosa molto semplice e quindi molto chiara anche. Come non c'è stato, non c'è un tabaccaio che possa dire, dice non è vero, fa finta di non guardare. Certo. Stappo il pacchetto. Chi lo compra lo sa. A quel punto, e abbiamo finito con gli equivoci. E di questo torneremo a parlare nel corso della trasmissione, nel corso di Effetto Giorno. Vi ricordo nel frattempo che prosegue anche la settimana speciale di Cuore Denari dedicata ai problemi dei risparmiatori colpiti o che sono spaventati all'essere colpiti da quello che è successo con il decreto Salva Banche, tutti i giorni dalle 10.30 a mezzogiorno, e noi ovviamente continuiamo a parlarne in tutte le nostre trasmissioni. Ci torneremo tra poco, come si diceva, restiamo nel frattempo sui temi economici e passiamo a parlare del debito pubblico italiano, che secondo i dati diffusi da Banca d'Italia in ottobre è aumentato di 19,8 miliardi, salendo a 2.211,8 e sfiorando il record storico registrato a maggio scorso, mentre in queste ore si discute ancora in Parlamento della legge di stabilità. Le novità negli emendamenti dal nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Partiamo allora, Simone, dalla sanità. Dietro fronte di fatto del governo sul capitolo assunzioni, nella notte un nuovo emendamento dell'esecutivo dice sì all'incremento del personale sanitario per fare fronte alle norme europee sull'orario di lavoro. In ballo ci sono non meno di 6.000 assunzioni tra medici ed infermieri. La soluzione adottata prevede che le regioni individuino entro febbraio il fabbisogno di personale necessario alla copertura dei servizi 24 ore su 24. A quel punto saranno autorizzate a procedere con assunzioni a termine e da giugno a bandire i concorsi per le assunzioni stabili per i posti vacanti. Sciopero comunque confermato domani di oltre 200.000 camici bianchi contro, dicono i medici, i tagli alle prestazioni ai cittadini e in difesa del servizio sanitario nazionale. Tra ieri sera e la nottata via libera poi in commissione bilancio al pacchetto cultura e sicurezza 2,6 miliardi, sia agli interventi sulla previdenza, poi con l'anticipo al 2016 dell'aumento della no tax area per i pensionati a 8.000 euro e nessun recupero della minore crescita del costo della vita. Via la tassa del 15% sulla compravendita dei calciatori, risorse all'ACI per il Gran Premio di Monza, capitolo immigrazione, infine arrivano i fondi per finanziare gli straordinari del personale impegnato nell'identificazione degli extracomunitari. È tutto, linea allo studio. E grazie a Vincenzo Miglietta. Avete sentito dell'emendamento per l'assunzione di 6.000 tra medici e infermieri e anche dello sciopero che è confermato per la giornata di domani, il servizio. Abbiamo cambiato il sistema alla base delle assunzioni. I fondi arriveranno dai risparmi generati da provvedimenti entrati in stabilità. È quanto ha dichiarato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in un'intervista al quotidiano La Repubblica Oggi in Edicola, in merito alla norma che dà il via libera per assumere fino a 6.000 medici e infermieri. Ma questo non basta per fermare lo sciopero previsto per domani 16 dicembre. È solo una toppa a un problema lasciato marcire, ci ha spiegato Giacomo Milillo, segretario nazionale della Federazione Italiana Medici di Famiglia, che ribadisce lo sciopero resta confermato. Lo sciopero però non era focalizzato su rivendicazioni specifiche, ma vuole avvertire i cittadini che in mancanza di un progetto unitario che incida strutturalmente sul governo del Servizio Sanitario Nazionale, sulla programmazione, il Servizio Sanitario Nazionale sta restringendo fortemente le sue competenze e le prestazioni erogate, per cui c'è il rischio che in prospettiva fallisca e che il cittadino sempre più debba sostenere spese proprie per la salute. Allo stop aderiscono tutte le sigle sindacali dei medici di ogni ordine e grado, compresi i veterinari, come raramente accaduto nella storia delle rivendicazioni di categoria. E se non arriveranno segnali significativi dal governo, già si preannunciano altre due giornate di sciopero per gennaio. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Quindi attenzione per la giornata di domani, 200.000 i camici bianchi in protesta e complessivamente sarebbero a rischio circa 2 milioni di prestazioni sanitarie tra visite ed esami di laboratorio e fino a 40.000 interventi chirurgici. Cambiamo argomento, è attesa oggi la sentenza di Cassazione sul caso di Stefano Cucchi, il trentenne morto nel 2009 mentre era in custodia cautelare. Il 31 ottobre dell'anno scorso gli imputati medici erano stati assolti in servizio. Confermare o meno la sentenza di assoluzione di secondo grado per tutti i 12 imputati, medici, infermieri e agenti della penitenziaria coinvolti nella morte di Stefano Cucchi. È un difficile compito quello che attende i giudici della Cassazione, dove poco dopo le 11 di questa mattina, nella quinta sezione penale, si è aperta l'udienza di uno dei casi più discussi e controversi degli ultimi anni. Dopo la relazione del consigliere Alfredo Guardiano parlerà il procuratore generale Nello Rossi e sono attese 12 arringhe di altrettanti avvocati e difensori. In primo grado solo 6 medici furono condannati per l'omicidio colposo del trentenne morto dopo l'arresto per droga avvenuto il 15 ottobre 2009. In secondo grado nell'ottobre del 2014 la Corte d'Appello mandò assolti anche i medici. Il ricorso in Cassazione è stato presentato dalla Procura Generale di Roma e dai familiari presenti in aula questa mattina. Tutto questo avviene poi nelle ore in cui la Procura di Roma iscrive 5 carabinieri nel registro degli indagati nell'inchiesta bis, 3 per lesioni aggravate, 2 per falsa testimonianza. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. E torneremo a parlare del caso Cucchi sempre nel corso della trasmissione. Veniamo al bilancio annuale della Direzione Investigativa Antimafia, i numeri con Giorgio Stamatopoulos. Buongiorno Giorgio. Buongiorno, sì, è un bilancio importante, sono numeri grandi, 2 miliardi e 600 milioni l'ammontare appunto dei beni sequestrati alla criminalità organizzata nel corso di quest'anno che sta per chiudersi, 530 milioni di euro invece rappresentano il totale delle confische, numeri illustrati dalla Direzione Investigativa Antimafia oggi al Viminale, alla presenza del Ministro dell'Interno Alfano, della Direzione Antimafia e Antiterrorismo guidata da Franco Roberti e del Presidente della Commissione Antimafia Rosy Bindi. A essere colpita innanzitutto Cosa Nostra, alla quale sono stati sequestrati complessivamente oltre 2 miliardi e mezzo e confiscati 320 milioni. L'Andrangheta invece è stata, diciamo così, impoverita con sequestri per oltre 153 milioni e confische per un totale di oltre 80 milioni. Io direi che possiamo sentire un breve passaggio dell'intervento del direttore della DIA, Antonio Ferla. Il 2015 segna una svolta soprattutto nell'azione strategica di contrasto alla criminalità organizzata, perché segna l'estimazione di un modello organizzativo che è basato sulla circolarità delle informazioni. Un capitolo a sé è stato rappresentato dalle operazioni condotte su Expo 2015 e sui cantieri pubblici. Gli uomini della DIA hanno analizzato oltre 25.000 richieste di accertamento e monitorato le informazioni relative a più di 6.000 imprese e 75.000 soggetti. Un lavoro garantito anche dalla banca dati Interforce e finalizzato alla sicurezza di un'esposizione universale che si prefigurava ad alto rischio e anche di infiltrazioni mafiose. Infine, il contrasto al riciclaggio finanziario. Su oltre 70.000 segnalazioni di operazioni sospette, la DIA ne ha lavorate, diciamo così, 486 e ne ha girate circa 11.000 alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo nell'ottica di una collaborazione sempre più stretta. Per il momento è tutto, linea allo studio. E grazie Giorgio Stamatopoulos per questi aggiornamenti. Notizie di poco fa, attivisti per i diritti umani hanno parlato di un massacro di centinaia di sciiti, fino a 1.000, nel raid dell'esercito nigeriano a Zaria, nel nord del paese, che è la roccaforte del movimento islamico della Nigeria, sostenuto tra l'altro dall'Iran. Il leader del gruppo, Ibrahim Zakzaki, è stato ferito e arrestato, un tempio e diverse case rase al suolo. E siamo alla pagina della lotta al terrorismo. L'Arabia Saudita ha intenzione di creare una coalizione musulmana contro l'ISIS, della quale fanno parte 34 paesi, tra cui gli stati del Golfo, un certo numero di paesi africani, Turchia, Egitto, Malaysia, Pakistan. Nel frattempo, ieri è tornato a parlare il presidente americano Barack Obama. Il segretario alla difesa americano Ashton Carter arriverà sabato a bordo della portaerei francese Charles de Gaulle, che comanda nel Golfo le operazioni navali della coalizione guidata dagli Stati Uniti contro i terroristi dell'ISIS. La notizia era stata già anticipata nel discorso tenuto ieri da Obama, nel quale il presidente degli Stati Uniti chiedeva apertamente ai paesi arabi di fare di più per contrastare lo Stato islamico. Dobbiamo cercare di far sì che i progressi nella lotta all'ISIS siano più rapidi, aveva rincarato Obama. Dobbiamo cercare di far sì che i progressi nella lotta all'ISIS siano più rapidi, aveva rincarato Obama. Poi, rivolto direttamente ai leader dello Stato islamico, aveva aggiunto: non potete nascondervi, sarete i prossimi ad essere colpiti. Proprio nel giorno dell'appello di Obama ai paesi arabi, a Riyadh nasceva l'Alleanza Militare Islamica contro il terrorismo. 34 nazioni, tra cui le monarchie del Golfo, la Turchia, l'Egitto, il Pakistan e diversi paesi africani, che uniscono le loro forze. Il comando centrale congiunto delle operazioni resta a Riyadh. L'Indonesia ed altri 10 paesi islamici, secondo il comunicato, hanno manifestato il loro appoggio alla coalizione. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E abbiamo in linea Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Bentornato Alberto, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Che credibilità ha questa coalizione guidata dai sauditi? Ma insomma, se questa coalizione facesse veramente quello che dice, la lotta al terrorismo, non potremmo che esserne tutti felici. Ma più che una grande coalizione, potrebbe essere anche questa una grande bugia, perché in realtà molti di questi paesi, lo sappiamo molto bene, il terrorismo lo hanno fomentato e sponsorizzato, dall'Arabia Saudita stessa, al Qatar, agli Emirati, alla Turchia, insomma tutti i paesi che hanno appoggiato movimenti jihadisti, ma non solo questo, hanno appoggiato soprattutto e sostenuto quegli imam radicali che negli ultimi 30 anni in qualche modo hanno inoculato il veleno del radicalismo e dell'estremismo in tutto il mondo arabo musulmano. Si sono pentiti? Speriamo. E grazie ad Alberto Negri per la tua analisi rapida e puntuale come sempre. Noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa, sentiamo che cosa succede sulle strade e poi dopo torniamo a parlare di banche e in particolare della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, e poi vi racconteremo una storia che arriva da Cagliari, arriva dalla Sardegna, dove è proprio per questo problema di nuova turnazione dei medici che è arrivata con una direttiva europea e che dovrebbe essere risolta con un emendamento della manovra, nei giorni scorsi è saltato un trapianto e i reni che erano pronti per questo trapianto sono stati spediti a Torino perché non c'era la possibilità appunto di effettuare l'intervento chirurgico. A tra poco. Effetto giorno. Sulle banche Padoan difende la Boschi e Salvini contro Renzi, un infame, il pensionato suicida sulla coscienza. Nicastro al vertice delle nuove banche, parla Radio 24, numeri circoscritti, 1000 i clienti più esposti per 30 milioni di euro. Sempre a Radio 24 il presidente dell'associazione bancaria Patuelli chiede avvisi sui prodotti a rischio come per le sigarette. Legge di stabilità, i fondi per le identificazioni dei migranti e arrivano le assunzioni per medici e infermieri. Si apre l'udienza in Cassazione nel processo per la morte di Stefano Cucchi, si decide sulla soluzione dei medici. Ed eccoci di nuovo con la seconda parte di Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, e siamo in linea con Fabio Pavesi del Sole 24 Ore, che da tempi non sospetti si occupa delle vicende della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio. Fabio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Oggi sul Sole 24 Ore, che tra l'altro sta continuando a portare avanti la sua iniziativa, ossia il manifesto per la tutela del risparmio in 5 punti, oggi sul Sole 24 Ore racconti una storia interessante che riguarda queste obbligazioni subordinate vendute dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio ai suoi clienti. Obbligazioni subordinate che a un certo punto della storia erano diventate difficili da piazzare presso i cosiddetti investitori istituzionali e quindi la banca ha deciso di iniziare a mollarle, per così dire, esattamente ai suoi clienti. Ah, sì, abbiamo tentato di ricostruire, anche perché nei bilanci queste cose, no, che erano scritte in modo molto visibile, nel senso la stessa banca, come dire, definì così la sua strategia già nel 2012. Cosa succede? Nel 2012 l'agenzia di rating Fitch viene licenziata dalla banca. Perché? Perché abbassa il rating della banca a BB, vuol dire rating speculativo. Tra le medie banche italiane in quel momento è quella messa peggio, perché Fitch certifica che ha crediti malati che sono il doppio della media delle altre banche comparabili. Qui la situazione già, come dire, che stava già deteriorandosi violentemente. La banca cosa fa? Decide di rifiutare questo rating, di fatto licenzia l'agenzia, e però a questo punto non può più collocare le obbligazioni a chi ci capisce, cioè agli istituzionali, quindi altre banche, gestori professionali. Perché in mancanza di un rating ovviamente le banche ti chiederebbero, e chi ti compra ti chiederebbe un rendimento molto elevato, a questo punto costerebbe molto alla banca, però la banca non può neanche rinunciare a questo denaro che entra, anche perché le obbligazioni subordinate vanno ad aggiungersi al capitale e proprio perché l'Etruria aveva questi crediti malati il capitale cominciava a venire eroso in modo potente. Quindi a questo punto la scelta diventa molto semplice. Sostanzialmente aveva già 200 milioni di subordinate collocate l'Etruria, arriverà a averne 350 prima del crack e della nuova Banca Etruria, e di fatto sposta appunto questa vendita da chi è in grado di apprezzare se quel titolo è rischioso o meno alla piccola clientela degli sportelli. E questo loro lo scrivono in modo dettagliato nel bilancio, parlano di granularizzazione della vendita delle obbligazioni. Granularizzazione, io quando ho trovato questo termine un po' astruso, però voglio dire, è chiaro nella sua essenza. Si vendono piccoli tagli ai piccoli clienti anziché grandi tagli alle banche, alle altre banche, piuttosto che agli investitori professionali. Fabio, gli organi di vigilanza si sono accorti di questi movimenti che precedono di gran lunga il momento del commissariamento della Banca Popolare dell'Etruria? Ma sai, è il solito problema. La Cons oggi ti dice, ma guardate che nei prospetti informativi c'era scritto che le obbligazioni subordinate in caso di fallimento della banca rischiavano di azzerarsi completamente. Tutto vero. Però sappiamo tutti bene come il prospetto informativo è fatto da 70-80 pagine, scritto in linguaggio ostico per i più, per quelli non esperti. E sfido chiunque a dimostrarmi che allo sportello ti veniva consegnato il prospetto, ti si dava il tempo di leggerlo. Di solito funzionava e tu andavi in banca, la tua banca è del territorio, ti fidi perché è la banca di riferimento, vai a chiedere un mutuo, ti dico ma c'è questa obbligazione della banca, in fondo è la nostra banca perché sono popolari, quindi tutti sono soci della banca. E quindi ho l'impressione che questa cosa sia un fatto veramente formale su cui la Consob formalmente ha ragione, ma poi io mi chiedo, ma poi la Consob andrà a verificare a valle se la procedura di collocamento era rispettata, punto di domanda, e soprattutto perché oggi allora, se si dice che tutto è a posto, tutti hanno lavorato per il meglio, si chiede di bloccare la vendita dei subordinati ai piccoli clienti, cioè se oggi si chiede, lo chiedono più voci, sì, di bloccare per legge la vendita di questi prodotti che hanno un grado di rischio perché sono paragonabili al capitale, quindi quasi alle azioni, mi chiedo se tutto è a posto, perché oggi qualcuno si chiede una legge, gli stessi autorità, per vietate completamente. Evidentemente il problema c'è, voglio dire. E c'era probabilmente anche prima. Io ti ringrazio. Fabio, dobbiamo stopparci. Io ti ringrazio. Grazie a Fabio Pavesi del Sole 24 Ore, come sempre, anche per la sua chiarezza. Anche qua. Saluto il dottor Ugo Storelli, che è coordinatore di trapianti dell'ospedale Brozzu di Cagliari, il più grande ospedale della Sardegna. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Per parlare di questa vicenda che abbiamo trovato sui quotidiani e che ci ha colpito, riguarda la famosa direttiva europea che l'Italia ha accepito di recente, che riguarda appunto la turnazione dei medici. Che cosa prevede? Che tra un turno e l'altro debbano passare almeno 11 ore e il lavoro non può proseguire oltre le 12 ore e 50 minuti. La regione Sardegna ha imposto la applicazione rigida di queste regole e ci sono dei trapianti che sono saltati, dottore. Sì, noi abbiamo avuto purtroppo per chi è morto ovviamente, ma per fortuna dall'altra parte, in 8 giorni 6 donatori, e non siamo riusciti, cercando di rispettare appunto queste nuove direttive, cioè che poi non sono nuove ma sono di 12 anni fa, ma si è deciso da novembre di applicarle, a formare delle equipe per fare dei trapianti, per cui 2 reni sono andati, non si sono persi, sono andati a dei pazienti che ne hanno usufruito, pazienti piemontesi, e da lì è nato ovviamente il problema a livello sia nazionale. Noi abbiamo già interessato, sia come commissario e direttore sanitario dell'azienda, la regione, e io personalmente, in una riunione con il Centro Nazionale Trapianti, il dottor Alessandro Nicosta, abbiamo posto il problema, che penso non sia solo nostro. Il nostro è venuto fuori perché siamo in un'isola. Certo, e perché il problema è che ci sono una serie di interventi, come per esempio i trapianti, che non vengono classificati come d'urgenza, e quindi bisogna sottostare rigidamente a questa regola, e anche questo è il punto, mi sembra di aver capito, no? Certo, perché i trapianti, le donazioni quando capitano non si sa, e se capitano in 3 giorni 3 donatori... Noi siamo l'unico centro in Sardegna che fa l'attività di prelievo e trapianto per tutti i donatori dell'isola, e i medici sono sempre quelli. Devono poi garantire anche un'attività istituzionale normale, quindi stare operatori per le urgenze, per le altre attività, per cui i conti poi alla fin fine non tornano come i turni. Si prevede, a quanto pare nell'emendamento arrivato nella nota della legge di stabilità, l'assunzione di 6.000 persone, di personale sanitario in genere, tra medici e infermieri. Lei ha l'impressione, dal suo osservatorio, che ovviamente è parziale, riguarda un singolo ospedale per quanto grande sia, che potrà bastare questo a livello nazionale? Secondo me non basterà in senso assoluto, perché come dicevo, può capitare che in due giorni, in una settimana, devono essere fatti comunque dei turni super stressanti, diciamo così, e non possiamo non fare un prelievo, non fare trapianto. Perché? Perché in quel momento si è capitata una donazione, dei familiari ci hanno detto di sì. Quindi il benvenga se ci sono delle assunzioni, ma io penso che nella nostra stessa situazione ci siano anche gli altri presidi, quindi non so se i 6.000 e se si faranno queste assunzioni siano sufficienti, diciamo. Da soli comunque non sono sufficienti, secondo me. La ringrazio, grazie al dottor Ugo Storelli, coordinatore di trapianti dell'ospedale Brozzo di Cagliari, per il racconto di questa storia. Noi adesso ci fermiamo, andiamo tra un attimo a sentire che cosa succede sui mercati. Per fortuna oggi le cose vanno bene, più 2,8% il FTSE MIB, più 2,6% il FTSE All Share, a differenza dei giorni scorsi. E poi nella seconda parte della trasmissione sentiremo l'intervista a Roberto Nicastro, a capo delle 4 nuove banche, e poi abbiamo l'analisi del nostro Daniele Biacchesi questo martedì, dedicata alla sentenza Cucchi. In arrivo tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Padoan, il ministro dell'economia, difende la Boschi sul caso delle banche, su Popolare dell'Etruria. Salvini contro Renzi, ha il pensionato suicida sulla coscienza, dice. Nicastro al vertice delle nuove banche, dice Radio 24, numeri circoscritti, 1.000 i clienti più esposti per 30 milioni di euro, tra un attimo sentiremo l'intervista. Nella legge di stabilità i fondi per l'identificazione dei migranti, e arrivano le assunzioni per medici e infermieri. Caso Cucchi, si apre udienza in Cassazione, il procuratore generale chiede l'annullamento dell'assoluzione dei 5 medici prosciolti in secondo grado. L'Arabia Saudita lancia una coalizione islamica per sconfiggere il terrorismo. La borsa. In questi giorni di festa, Radio 24 ti augura buon ascolto, buona informazione, buon divertimento, ma soprattutto buon Natale. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, come si diceva, vi facciamo ascoltare adesso l'intervista che ha realizzato poco fa la nostra Livia Zancaner con Roberto Nicastro, che è presidente delle quattro nuove banche nate dal decreto, appunto le nuove Popolare dell'Etruria, Cari Chieti, Cari Ferrara e Banca Marche, il quale parte proprio dai numeri su quanti sono effettivamente i risparmiatori coinvolti e quelli coinvolti in maniera più pesante da quello che è successo al decreto salva banche, che lo ricordiamo appunto ha azzerato il valore delle obbligazioni subordinate oltre che delle azioni. Sentiamo. Le nuove banche sono molto robuste appunto perché hanno con 1,8 miliardi di patrimonio e zero di sofferenze, in questo momento sono le uniche banche in Italia ad avere zero sofferenze, quindi è un dato molto molto importante che si è già riflesso nel fatto che le banche in circa 3 settimane hanno già erogato tra nuovi fidi e rinnovo di finanziamenti qualcosa come 300 milioni di euro a 1,500 piccole imprese. Rispetto al ripetersi di casi di questo tipo, che riflessioni fare? Allora, prima cosa, siamo in un paese che ne ha avuti molto molto meno rispetto alla media europea. Dal punto di vista di vigilanza, abbiamo osservato che questo problema è un problema che è il problema di queste vecchie banche, a radici storiche che vanno abbastanza in là nel tempo. Nel frattempo la vigilanza si è ulteriormente rafforzata e in linea generale è evidente che con risparmio non si può e non si deve scherzare. È arrivato ora lo stop di Banca Italia all'emissione di obbligazioni subordinate, ma non è uno stop arrivato un po' in ritardo, per così dire? Guardi, la normativa del bail-in è di settembre, in direttiva europea è di marzo 2014, quindi non siamo, come dire, molto lontani da questa tempistica. Dobbiamo tenere presente che se guardiamo per esempio alle emissioni di cui stiamo parlando, tutte sono realizzate ben prima della direttiva bail-in europea, che ha modificato in modo materiale e tangibile il rischio di questi prodotti, e oltre metà erano state emesse prima della crisi finanziaria del 2008. Erano prodotti che erano più rischiosi rispetto per esempio alle obbligazioni ordinarie o ai depositi che in quel momento stesso venivano emesse, ma in quel momento la loro rischiosità è una rischiosità che ancora non sapeva che in futuro ci sarebbe stata una crisi finanziaria come quella di Lehman, e men che meno sapeva che addirittura 9 anni dopo sarebbe uscita una, 8 anni dopo, chiedo scusa, una normativa del bail-in. Qua credo forse possiamo interrogarci tutti nell'ambito di normativa europea intervenuta se non fosse stato il caso di prevedere delle forme di transizione, no? Perché è evidente che qui arriva una legge che immediatamente rende più rischioso un prodotto che la gente ha già acquistato. Questo è un elemento importante che qualche riflessione a livello europeo probabilmente potrebbe e dovrebbe ingenerarla. Questo a livello generale. Come si diceva, Nicastro ha parlato anche di numeri. Le nostre evidenze parlano oggi di circa 1 miliaio di clienti più esposti, per un totale di 30 milioni di euro complessivo. Cosa intendiamo per clienti più esposti? Intendiamo piccoli risparmiatori o che abbiano meno di 100.000 euro di patrimonio presso le nostre banche, potrebbero averne anche da altre parti, ma questo, diciamo, sono i dati non disponibili, quindi presunti piccoli, e che abbiano oltre metà del patrimonio in questi titoli subordinati. Ecco, questi complessivamente sono 1 miliaio e sono quelli che chiaramente si evidenziano come i clienti più esposti, in totale fanno 30 milioni di euro. E siamo al processo Cucchi, come si diceva, mentre prosegue l'udienza in Cassazione per il processo di terzo grado, quindi che riguarda i medici, e il PG della Cassazione, Nello Rossi, ha chiesto ai giudici della quinta sezione penale di non mettere una sorta di pietra a tombare sulle cause della morte di Cucchi, mentre prosegue l'inchiesta bis della Procura di Roma sul ruolo delle forze dell'ordine. Noi sentiamo l'analisi di Daniele Biacchessi. Oggi è il giorno della verità per il processo sulla morte del giovane Stefano Cucchi. Il suo caso arriva in Cassazione proprio nelle ore in cui la Procura di Roma iscrive 5 carabinieri nel registro degli indagati nell'inchiesta bis. Il compito dei giudici della Suprema Corte non è semplice. Devono confermare oppure smentire la sentenza con cui vengono assolti 12 iniziali imputati, tra medici, infermieri, agenti della penitenziaria. La Procura Generale ha schierato uno dei magistrati di punta, l'avvocato generale Nello Rossi, da poco rientrato in Cassazione dopo 8 anni passati alla guida del pool contro la criminalità economica e finanziaria degli inquirenti romani. La storia di Stefano Cucchi comincia quando finisce la sua libertà. Il 15 ottobre 2009 Cucchi sta fumando uno spinello con un suo amico. Subisce un controllo e una perquisizione da parte delle forze dell'ordine. Gli trovano 18 grammi di hash e qualche pasticca. Viene fermato, condotto nella caserma Appia dei Carabinieri e arrestato. È sano, sta bene e invece no. Stefano muore a seguito di percosse il 22 ottobre 2009 alle 6:20 del mattino. L'inchiesta sulla morte di Cucchi nasce dalle denunce dei suoi familiari e dall'impegno della sorella Ilaria per fare luce sul pestaggio che, in base all'inchiesta bis, la vittima avrebbe subito nella caserma. Durante le varie fasi delle indagini e le ricostruzioni dei vari imputati alle autorità giudiziarie sono risultate confuse e piene di contraddizioni. Colpisce il meccanismo adottato dagli uomini dello Stato coinvolti in questa vicenda, lo spirito di corpo, fare quadrato, difendersi a volte dichiarando perfino al falso. Un brutto film che abbiamo già visto proiettato troppe volte in Italia, dallo strano volo dell'anarchico Pino Pinelli dal quarto piano della Questura di Milano, di cui ricorre oggi l'anniversario della morte, all'uccisione di Franco Serrantini a Pisa, passando per i fatti della caserma di Bolzaneto e della scuola Diaz di Genova, fino alla morte di Federico Aldrovandi a Ferrara. Oggi sono stati diffusi dei dati interessanti che riguardano i professionisti. La crisi per loro si è fatta sentire, così come per tutti, in maniera particolarmente pesante. Sentiamo. Professionisti sempre più poveri e sempre più maturi. Oltre la metà degli iscritti alle casse previdenziali della categoria è over 45. Ma il loro numero è aumentato e i bilanci sono in crescita costante. Il quadro a chiari e scuri è dell'ADEP, l'Associazione delle Casse di Previdenza Private, e in un colpo d'occhio evidenzia come il reddito medio degli iscritti sia crollato. Lo stipendio si ferma a 28.000 euro, con una perdita in termini reali del 18,35% tra il 2007, prima della crisi, e 2014, l'ultimo aggiornamento. E il passaggio della crisi ha anche creato disuguaglianze forti, come dice il presidente ADEP Andrea Camporese. Sono numeri purtroppo molto pesanti, nel senso che molte professioni hanno perso redditi superiori al 30% nell'ultimo quinquennio e soprattutto una differenza molto marcata tra uomini e donne, tra nord e sud. Il giovane professionista ci mette un sacco di tempo prima di diventare autonomo. Colpiti non solo i giovani, ma anche le professioniste, che guadagnano la metà, al massimo il 70% degli uomini. Comunque il numero degli iscritti all'ADEP non diminuisce, anzi è salito anche nell'ultimo anno e ormai sfiorano quota 1,5 milioni, oltre 50.000 iscritti in più nel giro di un anno. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. È il momento di sentire cosa succede sulle strade, poi Mario Platero, ci sentiamo alla fine per i saluti.